GR24, il sole 24 ore. Tensioni Siria-Turchia, il premier turco chiede al Parlamento l'autorizzazione a fare operazioni militari fuori confine. Istat cala ancora il potere d'acquisto delle famiglie italiane. Il presidente di Confindustria Squinzi: dobbiamo puntare al 2% di crescita annuo. Oggi in Consiglio dei Ministri le misure per lo sviluppo e anche per il taglio dei costi della politica regionale in Lazio, sequestrati a Fiorito beni per 1.300.000 euro. Europa si svuota il fondo sociale, finiti i soldi per l'Erasmus, il progetto che ha formato generazioni di studenti. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con GR24. In apertura andiamo ancora con gli occhi puntati al confine tra Siria e Turchia, perché Ankara risponde al fuoco che è partito ieri dalla Siria verso il suo territorio, mentre il premier turco chiede al Parlamento l'autorizzazione a svolgere operazioni militari anche fuori dai confini, e arrivano anche le prime reazioni internazionali. Tensione al confine tra Siria e Turchia, dove proseguono i bombardamenti dell'artiglieria di Ankara sulle postazioni dell'esercito di Damasco in risposta all'uccisione di 5 civili ieri nella cittadina di confine di Akçakale. Il premier turco Erdogan ha sottoposto questa mattina una mozione urgente alla grande assemblea riunita a porte chiuse, nella quale chiede l'autorizzazione ad azioni militari in Siria. La mozione Erdogan afferma che la crisi in corso in Siria mette in pericolo la stabilità e la sicurezza della regione. Una guerra tra i due paesi non è mai sembrata così vicina. Su richiesta della Turchia si sono riuniti questa notte la NATO e il Consiglio di sicurezza ONU. L'Alleanza Atlantica si è schierata a fianco di Ankara denunciando una violazione flagrante della legge internazionale. L'UE ha condannato la strage ma ha anche invitato tutte le parti alla moderazione. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Tutto questo nel giorno in cui si è svolto il primo dei tre faccia a faccia tra Obama e Romney in corsa per la Casa Bianca, il faccia a faccia che si sarebbe aggiudicato il candidato, lo sfidante repubblicano, ma di questo parleremo più avanti. Adesso veniamo ai fatti italiani, perché c'è un importante appuntamento oggi in Consiglio dei Ministri, ci sono attese delle misure per lo sviluppo e sui costi delle regioni. Nel giorno in cui è stata la Confcommercio, l'Istat e anche la Confindustria hanno confermato il difficile momento della congiuntura economica italiana. Ma allora iniziamo proprio dalla parte economica del Consiglio dei Ministri, Alessandra Schepisi. Sì, il Consiglio dei Ministri corposo, quello di oggi, che si riunisce alle 15.30 sul tavolo l'atteso provvedimento sulla crescita, il cosiddetto decreto sviluppo bis, al suo interno l'ambizioso progetto di digitalizzare l'Italia che vale 400 milioni di euro, di cui 150 per implementare la banda larga, 130 per le start-up, le nuove aziende innovative, e poi ricette mediche elettroniche, documento elettronico unificato, ovvero carta d'identità e codice fiscale in un'unica tessera, ma anche altre misure come il credito d'imposta per le infrastrutture e la proroga della concessione per il Sulcis. Tutto questo in 38 articoli che dovrebbero ridare slancio all'economia e dare prova che il governo non è impegnato solo sulla linea del rigore. Stralciata invece dal decreto sviluppo la parte legata alle semplificazioni, che diventa un disegno di legge a sé e che verrà esaminato oggi dal Consiglio dei Ministri solo in prima battuta. Tra le novità contenute in questo provvedimento, il cambio di residenza e la contestuale dichiarazione per la tassa sui rifiuti, che diventeranno un solo documento, e poi semplificazione delle procedure per la tutela sanitaria per i lavoratori stagionali con contratti inferiori a 50 giorni, e a differenza del passato arriva il silenzio assenso per l'autorizzazione edilizia al posto dell'attuale silenzio diniego. Ed Roma è tutta, voi la linea. Grazie Alessandra Schepisi, sentiamo le parole questa mattina poco fa del presidente della Confindustria Giorgio Squinzi, che ha confermato: il momento è difficile ma l'Italia deve puntare ad una crescita del 2% annuo. Basta guardare i dati, li avete visti. Le proiezioni del centro studi di Confindustria parlano di meno 2,4 per quest'anno e meno 0,6 per l'anno prossimo, quindi non possiamo certo giudicarli dati positivi. Alla fine io mi auguro, e le nostre proiezioni dicono anche, che nella seconda parte dell'anno prossimo si dovrebbe vedere perlomeno un cambiamento di direzione per avere una vera ripresa. Come ho già detto, credo che per vera ripresa io tendo un 2%, una crescita del 2%, dobbiamo aspettare probabilmente il 2015. E intanto a confermare il calo dei consumi delle famiglie italiane ci sono l'Istat e la Confcommercio. L'ultimo colpo di coda di un anno difficile per famiglie e imprese è confermato nel rapporto trimestrale di Confcommercio presentato oggi. I consumi dell'agosto 2012 sono scesi del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2011. Numeri sconfortanti che, se da un lato dimostrano l'intenzione da parte delle famiglie di non ridurre i consumi, almeno nei mesi estivi, dall'altro non evidenziano un'inversione di tendenza rispetto a quanto già emerso durante tutto il 2012. Il direttore del centro studi Confcommercio, Mariano Bella. I mesi estivi segnalano una fine del la caduta dei consumi. L'aspetto negativo è che la fermata di questa caduta ci porta sul fondo e non ci riprendiamo. Questi dati sono coerenti, i dati dell'indicatore dei consumi Confcommercio, con una chiusura d'anno dei consumi che, in termini pro capite, risulterà effettivamente la peggiore da quando si hanno serie storiche, diciamo, nella storia repubblicana. Una situazione difficile che si è registrata durante tutto il 2011. Secondo l'Istat, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,8% rispetto al 2010, con una flessione marcata della spesa per i generi alimentari, che registra una diminuzione dell'1,3%, e con la concomitante diminuzione della propensione al risparmio, scesa all'8,8% rispetto al 9,7% del 2010. Livio Lazzari, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fin qua dunque, come dicevamo, la parte economica, la situazione economica fotografata dai dati dell'Istat e della Confcommercio e dalle attese per il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Consiglio dei Ministri che però cercherà di mettere una toppa anche su un'altra faccenda, quella dei costi della politica nelle regioni, una faccenda che è scoppiata nelle ultime settimane con numerose inchieste. Ma vediamo quali sono le attese per gli interventi di oggi. Laura Bettini qua in studio con noi. Buongiorno. Sì, sorprese dal Consiglio dei Ministri di oggi non dovrebbero arrivarne troppe, anche perché il governo si sta muovendo sulla traccia di un documento che è stato presentato dai governatori stessi delle regioni al sottosegretario Catricalà la scorsa settimana. Una traccia che, tra l'altro, va detto, era già stata segnata più di un anno fa dal ministro Tremonti, che però allora non fu seguita. Adesso, dopo lo scandalo del Lazio e le continue rivelazioni di abusi e reati in diverse regioni italiane, l'urgenza è innegabile. La Camera ha approvato già ieri le leggi per la riduzione dei consiglieri in tre regioni a statuto speciale, che sono Friuli, Sardegna e Sicilia, dove però i tagli non saranno introdotti per le regionali di fine mese, quindi parliamo della prossima occasione. Per le altre regioni si parla di taglio del numero degli assessori e del 30-35% dei consiglieri in meno a seconda del numero degli abitanti delle regioni. E poi ci saranno nuovi parametri per gli stipendi degli eletti, massimo l'85% dello stipendio di un parlamentare, disciplina più rigida sulle spese dei gruppi consigliari, forte e stretta sui controlli delle uscite, questo controllo da affidare direttamente alla Corte dei Conti. Passata l'urgenza, poi il governo pensa a un intervento chirurgico sul titolo quinto della Costituzione per rivedere le competenze delle regioni e rafforzare i poteri del governo centrale, ma questo è un processo, Alessio, che sappiamo essere assai lungo e che difficilmente questo governo potrà portare a compimento. A te. Grazie Laura Bettini qua in studio con noi. Questo dunque è quello che si prospetta per la riunione di oggi del Consiglio dei Ministri. Però sul fronte della corruzione c'è anche il DDL sul quale sta lavorando il governo e soprattutto il Parlamento. Elisabetta Fiorito, ci sono delle novità? Sì, buongiorno. Il governo presenta 3 emendamenti al disegno di legge anticorruzione. La novità maggiore riguarda il tetto massimo per i fuori ruolo dei magistrati che non potranno essere collocati proprio al di fuori del lavoro, che comprendano i 10 anni continuativi. La norma riguarda i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato. Gli altri 2 emendamenti erano già previsti, riguardano il traffico di influenza e la corruzione tra privati. Parere negativo a norme salvarubi e anti-Batman. Il ministro Severino boccia i 3 emendamenti PDL sulla concussione per induzioni che erano applicabili al caso Berlusconi e anche quello per punire l'uso illecito dei soldi erogati dalle componenti politiche. Per il guardasigilli questa soluzione sarebbe meno punitiva di quelle attuali. Il disegno di legge dovrebbe approdare in aula al Senato entro il 10 ottobre. C'è l'impegno di tutti, spiega il ministro Severino. Soddisfatti il PD e i DV che annunciano di ritirare i propri emendamenti, anche se Antonio Di Pietro parla di montagna che ha partorito il topolino. Più critico il PDL, Gaetano Pecorella dice è stato fatto un passettino avanti, ma ci sono troppe norme generiche che possono dar luogo ad arbitri. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito. E continuando a parlare di politica, PD e PDL alle prese con problemi interni e spiazzati anche dall'ipotesi di un Monti bis. E questo è l'approfondimento di oggi di Italia in Controluce. Anna Marino. Mano le polemiche sulla bozza, sulle regole delle primarie di centrosinistra, da una parte, che sarà sottoposta all'assemblea del PD di sabato e crea a distanza tra Pierluigi Bersani e il suo maggior competitor, ossia il sindaco di Firenze Matteo Renzi, degli screzi. Renzi richiama le regole precedenti, quelle già utilizzate per eleggere Prodi, Veltroni e lo stesso Bersani. Le novità principali sono il registro degli elettori del centrosinistra e anche il doppio turno, per di più limitato a quanti hanno partecipato al primo. E anche sul fronte del PDL si parla di caos, di nodi come gli scricchioli dei regioni importanti guidate dal PDL e sulla legge elettorale. Dopo una giornata di riunione ufficiale non, quella di ieri, culminata in un vertice con Silvio Berlusconi e Palazzo Grazioli, e tra poco in Italia in Controluce con Daniele Biacchetti parleremo proprio di questo, PDL e PD travolti dalle inchieste, dalle polemiche, attraverso le testimonianze dei protagonisti. A tra poco. Grazie Anna Marina, appuntamento dunque alle 13.30, adesso invece è il momento di fare qualche riflessione insieme a Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Comunque vadano le cose con le primarie, le cui regole, certo necessarie, vengono fissate all'ultimo minuto in modo un po' sospetto, dando l'impressione che siano più che altro una barriera protettiva del gruppo dirigente nei confronti dello sfidante Renzi. Ebbene, comunque vadano le cose con le primarie, il Partito Democratico non sarà più quello di prima. È illusorio pensare che una vittoria di Bersani riporti indietro le lancette dell'orologio. La trasformazione è in atto, innescata in modo anche disordinato proprio dalla candidatura del sindaco di Firenze, che ora però è di fronte al passaggio cruciale. Se riesce a vincere lo stesso, nonostante le regole capestro che saranno fissate sabato, vorrà dire che la sua personalità politica è in grado di cambiare non solo il PD, ma tutta la politica italiana. Se perderà, come è più probabile, il seme della novità sarà stato comunque gettato e riguarderà in forme e tempi oggi non prevedibili non solo il centrosinistra, ma l'intero vecchio assetto della nostra politica. E sul fronte di cui abbiamo parlato poco fa, degli sviluppi delle inchieste sulle regioni, la corruzione nelle regioni, ci sono anche delle notizie di cronaca, dunque non solo l'attesa per le decisioni del Consiglio dei Ministri. Cominciamo dal Lazio, in corso infatti il sequestro dei beni di Franco Fiorito riconducibili alle attività illecite di sottrazione dei fondi del suo gruppo, il PDL, alla regione. Tra i beni sequestrati ci sono anche la villa al Circeo, una Jeep comprata per l'emergenza neve a Roma, una BMW, una Smart, 7 conti correnti italiani e 4 conti correnti esteri. Il maxi sequestro di beni di Franco Fiorito ammonterebbe ad un valore complessivo di 1.300.000 euro. E in Lombardia invece opposizione all'attacco dopo la prima sentenza sulla sanità lombarda, che ieri ha condannato a 10 anni di carcere in relazione al crack del San Raffaele il faccendiere Pierangelo Daccò, molto vicino al governatore Roberto Formigoni. La regione Lombardia è del tutto estranea alla vicenda, ha ribadito lo stesso Formigoni questa mattina. Una sentenza che mette in dubbio l'intera gestione della sanità in Lombardia, dice invece il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Luca Gaffuri. Sentiamolo al microfono di Maria Luisa Pezzali. Le vicende San Raffaele e Maugeri evidenziano che risorse importanti sono state distolte dall'uso sanitario per invece finanziare soggetti di carattere privatistico. Questo è inammissibile. Daccò ha avuto un ruolo troppo influente su decisioni prese da Regione Lombardia, in particolare prese dalla Giunta. La condanna di Daccò a 10 anni evidenzia che quelle che potevano essere semplicemente delle supposizioni, effettivamente sono state verificate a livello giudiziario in primo grado. Proprio per questo il presidente Formigoni deve assumersi comunque la responsabilità, non può continuare a mettere la testa sotto la sabbia. È necessario, noi riteniamo, che il dibattito arrivi al più presto in Consiglio, e dall'altra parte noi chiediamo che il presidente Formigoni faccia un passo indietro con le dimissioni. Riprendiamo dall'estero, come dicevamo, dal primo duello televisivo tra Obama e Romney. Con Obama in carica altri 4 anni, ha detto lo sfidante repubblicano, l'America sarà più debole. Il presidente ha invece difeso i risultati ottenuti in questi 4 anni. Ma sentiamo com'è andata, secondo i sondaggisti, faccia a faccia se lo sarebbe aggiudicato Romney. Mitt Romney, a sorpresa, ha vinto ieri sera il primo dibattito elettorale per le presidenziali 2012. Il candidato repubblicano è apparso sempre in palla, aggressivo, preciso, senza mai perdere una battuta, mentre il suo concorrente, il presidente Barack Obama, che conosciamo per essere un grande oratore, è apparso in realtà spesso incerto, tentennante e comunque evidentemente seccato dal fatto di trovarsi troppo spesso sulla difensiva. Un paio di volte Barack Obama è riuscito a riprendere il ritmo della sua oratoria, ma complessivamente questo dibattito è andato a Mitt Romney. C'è da chiedersi se basterà un dibattito come questo per rimetterlo in gioco seriamente. Forse sì, forse no, anche perché la vittoria alla fine si giocherà su 2 stati chiave, l'Ohio e la Florida, dove Romney si trova in svantaggio piuttosto marcato. Si tratterà di capire se questi risultati di ieri potranno riportarlo in una posizione di parità con Obama negli stati chiave. Mario Pratero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E ritroveremo Mario Pratero tra poco in America 24, naturalmente a riprendere, a commentare il faccia a faccia tra Obama e Romney. E adesso parliamo invece del Papa che da Loreto chiede di far prevalere la solidarietà sull'egoismo in questo periodo di crisi. Benedetto XVI, pellegrino a Loreto, sulle orme di Giovanni XXIII, il Papa si è fermato in preghiera nella Santa Casa di Nazareth, che, narra la tradizione, fu trasportata in città dagli angeli. Alla Madonna ha affidato 2 importanti iniziative ecclesiali: l'Anno della Fede, che avrà inizio l'11 ottobre nel 50° anniversario del Concilio Vaticano II, ed il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, che prenderà il via invece domenica. Benedetto XVI ha chiesto ai fedeli di vivere questi prossimi appuntamenti ecclesiali come un tempo di grazia spirituale per fare memoria del dono prezioso della fede. Nella crisi attuale, ha ricordato il Papa, che interessa non solo l'economia ma i vari settori della società, è necessario far prevalere la solidarietà sull'egoismo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in questa notizia c'è spazio, in questa giornata, scusate, c'è spazio anche per una buona notizia, perché ci sono 3 manifestazioni di interesse per lo stabilimento sardo dell'Alcoa. Così oggi il sottosegretario De Vincenti. A parlare oggi è il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti. Per Alcoa, ha detto, sono in ballo 3 manifestazioni di interesse. In particolare si tratta di Clash, che ha avviato una negoziazione diretta con Alcoa. Sollecitiamo, ha precisato De Vincenti, le altre 2 interessate a iniziare le trattative. E le altre 2 sono la Kitagen, già nota, e una grande impresa australiana, vera novità della vicenda. L'altro passo avanti è stato fatto ieri dall'antitrust dell'Unione Europea, che ha prorogato di 3 anni fino al 2015 gli sconti sul costo delle bollette nelle isole. Siamo in grado di garantire un prezzo dell'energia notevolmente inferiore rispetto a quello praticato per gli stabilimenti di alluminio in Germania, Olanda e Spagna, ha detto il sottosegretario De Vincenti. La notizia è stata accolta positivamente anche dai lavoratori dello stabilimento Alcoa di Portovesme in Sardegna, oggi in assemblea. È stata così riaccesa la speranza per evitare la chiusura della fabbrica che, lo ricordiamo, produce alluminio primario. Intanto, sui temi del lavoro e della crisi dell'industria, la CGIL ha fatto sapere che tornerà in piazza il 20 ottobre a Roma. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Generazioni di studenti europei si sono formati con il progetto di scambi Erasmus in tutti questi anni. Adesso una delle poche cose positive è ricordata forse da molti cittadini europei proprio dell'Unione Europea. Adesso la notizia è che il Fondo Sociale Europeo è quasi vuoto ed è questo fondo che sovvenziona il progetto Erasmus, oltre a le risorse per la ricerca e l'innovazione. Quali saranno le conseguenze di questi tagli? Al microfono di Luisa Perona, Patrizio Fiorilli, che è portavoce del commissario al bilancio Janusz Lewandowski. Non capiamo veramente l'atteggiamento degli Stati membri, del Parlamento. Nella nostra proposta per il bilancio 2013 vogliono tagliare 5 miliardi dove? Esattamente crescita, scienza, educazione, ricerca, gioventù. un po' lo capiamo che c'è la crisi e che gli stati membri hanno bisogno di trovare soldi dovunque, solo che se tagliano in quel bilancio fanno male alle loro regioni, loro comuni, loro studenti. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Fabio Cantadori in regia, vi augurano buona giornata. Adesso c'è GR Spettacoli, poi Italia in controluce. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Il 5 ottobre del 62 usciva Love Me Do dei Beatles e domani allo Spazio Oberdan di Milano si festeggiano i 50 anni del primo 45 giri dei Fab Four. A celebrarlo i Beatlesiani d'Italia, che a loro volta festeggiano i 20 anni dalla loro fondazione. Il presidente dei Beatlesiani d'Italia, Rolando Giambelli. Decisi nel 92 di fondare questa associazione. Mi svegliai un attimo e dissi: fondiamo un'associazione. Era il 4 ottobre del 92 e immediatamente costituimmo l'associazione e la registrammo all'ufficio del registro il 5 ottobre del 92, per cui esattamente 30 anni dopo che era stato fatto Love Me Do. Adesso ne sono passati 50 da Love Me Do, per cui festeggiamo 20 anni di associazione. Faremo una grande festa tra il 4 e il 5, perché a mezzanotte e un secondo faremo un grande brindisi con tutti i fans a Brescia, perché ovviamente partiamo dal fatto che l'associazione ha sede a Brescia, dove ha anche sede il nostro museo dedicato ai Beatles e dove abbiamo iniziato a fare i Beatles Day. Tra il 4 e il 5 avremo ospiti, autori letterari, ci sarà Franco Zanetti, che ha fatto recentemente il libro bianco dei Beatles, ci sarà Andrea Kerbacher con Alberto Tonti, che hanno fatto insieme Let It Beatles, ci sarà Luca Perasi, che appena ha fatto un tomo meraviglioso sulle session di Paul McCartney in tutta la sua carriera, è un libro veramente per gli intenditori da consultare. Poi ci saranno i vari collezionisti, ci sarà Ricky Gianco a Milano, ci saranno al telefono Gianni Minà, che portò i Beatles con la sua 600 in giro per Roma e fu il primo che li accolse a Milano alla prima tournée che fecero nel 65. Si è aperta l'insegna della danza alla stagione dell'Opera di Roma e con un grande classico, Romeo e Giulietta, Amore e Morte, coreografia di Patrice Barr su musiche di Prokofiev. Tra le interpreti, Gaia Straccamore dell'Opera di Roma. Sentiamola al microfono di Elisabetta Fiorito. Giulietta è un ruolo che ho nel cuore, sono particolarmente affezionata a questo ruolo, quindi lo ballo con estrema felicità. E soprattutto perché ballare Giulietta ti dà la possibilità in 2 ore circa di provare una vastissima gamma di sensazioni, che sono quelle più opposte fra di loro, dalla felicità della fanciullezza, l'innamoramento, la passione, alla fine il dramma. Debutta al Teatro della Cooperativa lo spettacolo Me ne fotto dell'artista Rocco Barbaro, brillante autore interprete che racconta in tono ironico la sua esperienza di emigrante calabrese alle prese con la stressante realtà milanese. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Racconto la mia storia partendo da Reggio Calabria, da riferimenti a questa città dove ho vissuto e poi l'approdo a Milano, che è stata fondamentale per una città che io continuo ad amare e che ho amato. E ci sono dei passaggi che vuole raccontare di questo spettacolo? Il rapporto, per esempio, con la sistemazione in una grande metropoli, no? Che è cercare casa, no? E la cosa che mi ha meravigliato, venendo da Reggio Calabria, dove questo problema non esisteva e forse non esiste ancora, si parlava di angoli, angolo cottura, angolo letto, angolo studio, angolo qua. Alla fine ho pensato: io per andare a cagare devo applicare il teorema di Euclide. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Un saluto da Adriana Fracchia.